Grazie anche al gruppo, vogliamo ringraziare il gruppo di Lode per come ci guidano sempre in un tempo benedetto di adorazione. Che bello, buon 2016 a tutti, che bella prima fila piena che abbiamo. Sempre bella la prima fila, ancora più bella secondo me l'ultima fila. Stamattina mi sono messo dietro ad adorare il Signore ed è troppo bello vedere queste mamme con i figli, con le figlie, e vedere le loro facce poco sveglie perché sicuramente i loro figli non li hanno fatti dormire la notte, però grazie che ci siete, grazie non esce, viene censurato. Grazie che ci siete, grazie che fate questo sforzo ed è troppo bello vedere i vostri figli crescere, c'è anche Luca dietro con Alice, sono troppo belli i bambini della nostra chiesa, sono benedetti, hanno dei sorrisi meravigliosi, vero? Troppo bello. C'è un episodio che si trova in Atti capitolo 4 dove noi leggiamo che la Chiesa degli Atti degli Apostoli si trova in un tempo particolare. Leggiamo che la Chiesa è cresciuta in una maniera incredibile, sono arrivati a 5.000 uomini, in poco tempo sono arrivati al numero di 5.000 uomini. Ora guardatevi attorno, di solito le donne e i bambini sono sempre di più, quindi potete immaginare che questa era sicuramente una Chiesa cresciuta fino a oltre 10.000 membri. E a questo punto Pietro e Giovanni vengono arrestati e la Chiesa poi prega per loro e loro vengono poi liberati. E quello che la Chiesa vive è un tempo di preghiera per quello che è una fase di transizione, una fase importante, una stagione particolare della vita di Chiesa. Si trovano per la prima volta davanti a tanti miracoli, a tanta conquista, tante vite ravvedute e messe al servizio di Dio, e al tempo stesso cominciano a vivere la minaccia della persecuzione. Quindi sono in questa fase dove non vivono con tranquillità, sono da un lato contenti che Pietro e Giovanni sono stati appena scarcerati e quindi hanno la gioia di celebrare la loro scarcerazione, ma al tempo stesso Pietro e Giovanni vengono scarcerati con tante minacce. Viene proprio, se andate a leggere, non abbiamo il tempo di leggere questo passo, però quello che percepiamo è che proprio Pietro e Giovanni vengono minacciati affinché non parlino più e non annuncino più l'Evangelo. E quindi la Chiesa è un po' impaurita da un lato, entusiasta dall'altro, e che cosa fa? Si riunisce e prega. E quella che la preghiera che questa Chiesa fa in questo tempo così particolare è gloriosa. È gloriosa a tal punto che il posto dove loro erano riuniti, pensate un po', cominciò a tremare fisicamente. Ci fu un terremoto fisico, perché nel luogo in cui loro erano riuniti e nella preghiera che loro stavano rivolgendo a Dio, Dio ha operato cose meravigliose, incoraggiandoli, facendo sentire la forza della sua presenza e dicendo: ce la potete fare, andate avanti. E sono andati avanti. Da quel punto in poi leggiamo di più miracoli, di più prodigi, di più conquiste, di più vittorie e di più persecuzione, dei primi martiri e delle morti. E tutto questo è ciò che è vero anche per noi oggi. E io credo che siamo in un periodo di transizione, non tanto perché il numero nel calendario è cambiato, ma perché siamo in una stagione nuova come Chiesa. Siamo in una stagione nuova dove possiamo celebrare le conquiste avute l'anno passato, vero? Abbiamo avuto un anno meraviglioso, eccezionale come Chiesa. Dio ci ha guidati in un tempo di grazia, dove abbiamo potuto raggiungere tante altre persone. E la nostra influenza è cresciuta, tanti hanno sentito l'Evangelo predicato da parte nostra e noi abbiamo motivo di gioire. Oggi, 3 gennaio, abbiamo motivo di festeggiare, perché abbiamo avuto un dicembre glorioso, meraviglioso, e io credo che non sia mai successo nella storia della nostra Chiesa che in un'unica riunione 50 persone hanno accettato il Signore. Io credo che questo è solo l'inizio di qualcosa di glorioso che Dio vuole fare. Mai si sicuramente nella storia della nostra Chiesa. Siamo riusciti a portare l'Evangelo avendo una rappresentanza così numerosa delle autorità di questa città e non solo. È stato glorioso vedere che pur andando a Mottola a fare quell'evento, anche lì era presente il sindaco. Io dove andavo e andavo, ero perseguitato dai sindaci e dagli assessori. Io che di politica poi non tanto me ne intendo, accerchiato. E abbiamo potuto predicare l'Evangelo anche a queste persone. Gloria a Dio per questo e gloria a Dio per ogni conquista che Dio ci ha dato. E quello che diceva Vito non è da dare per scontato. Noi abbiamo investito nell'anno 2015, pensate un po', ben 5.000 euro. 5.000 euro sono uscite dalle nostre casse attraverso il dono Perché Amo del 2014 per seminare l'Evangelo. E quei 5.000 euro quest'anno li abbiamo investiti specificatamente per gli eventi evangelistici e per tutto quello che di straordinario abbiamo visto sia a dicembre e sia poi anche con le occasioni evangelistiche durante l'anno, agosto, un agosto da Dio. Lì abbiamo potuto investire con soldi straordinari che abbiamo raccolto grazie alla vostra generosità. Abbiamo vissuto un tempo di generosità a 360 gradi, abbiamo benedetto famiglie con bisogni, abbiamo potuto benedire la comunità indiana e tutto questo da un cuore generoso dal quale noi vogliamo essere motivati anche in questo nuovo anno. Se sei stanco di sentire da questo palco, dai, investi, dona di più. Dona straordinariamente, prendi da quella cassa della banca, prendi dai tuoi risparmi, investi per il regno, allora questa chiesa non fa per te, perché noi come chiesa non faremo altro che continuare a incoraggiarci reciprocamente ed è una sfida per tutti noi, non è che qui sul palco chi lo dice ne sente, è una sfida per tutti noi. Investire, scegliere di prendere i nostri averi, i nostri beni, i nostri soldi per investirli nel regno di Dio. Noi vogliamo seguire l'esempio della Chiesa negli Atti degli Apostoli e vediamo che i loro miracoli erano accompagnati anche da un'estrema generosità. Questa Chiesa era una Chiesa talmente generosa che vendevano le loro proprietà. No, immagina la tua proprietà, la tua casa. Il tuo terreno, la tua auto, la vendi per portare i soldi ed investire i tuoi soldi per l'avanzamento del regno di Dio. Questo è quello che letteralmente quella chiesa lì ha fatto. E non è quello che io voglio incoraggiarti a fare, però se lo Spirito Santo te lo dice di farlo, fallo, fallo, perché ti assicuro che ogni centesimo che noi andremo a raccogliere in questa chiesa non sarà mai investito per arricchire qualcuno, ma sarà sempre investito per l'avanzamento del regno di Dio. E questo è un mese meraviglioso, il mese di gennaio, dove avremo dono perché amo. E sapete, la nostra generosità anche vuole andare oltre queste quattro mura, il nostro impattare questa città, vogliamo benedire anche altre opere. Ed è quello che abbiamo fatto l'anno scorso, abbiamo investito 2.000 euro per benedire altre opere, opere esterne, tra cui porte aperte. E io vorrei che noi vedessimo questo saluto, questo video di ringraziamento da parte di Cristian Nani, direttore di Porte Aperte. Abbiamo voluto investire in quest'opera perché noi crediamo che soprattutto in tempi come questi noi dobbiamo incoraggiare i credenti, i nostri fratelli e le nostre sorelle perseguitati nel mondo musulmano in modo particolare. Quindi Porte Aperte è un canale perfetto per questo e quindi vogliamo vedere il video. Se c'è, c'è? Ok. Ciao Chiesa, un breve messaggio per ringraziarvi di cuore perché avete il coraggio di voler cambiare il mondo donando. Rappresenta una missione Porte Aperte che fa del coraggio spirituale uno degli strumenti essenziali per prendere decisioni per il regno di Dio. un coraggio che viene dal servire un Dio indomabile, un Dio inarrestabile, un Dio furioso che io e voi abbiamo l'ardito diritto di chiamare Abba, Papà. Voi tutti insieme come un corpo unico, pieno di Vangelo, ben connesso al resto del corpo di Cristo, avete fatto vostro questo coraggio e l'idea folle di poter cambiare il mondo con il vostro dono. Ebbene, Porte Aperte l'anno scorso ha ricevuto con il vostro dono una iniezione di coraggio tangibile, grazie alla quale abbiamo potuto esserci nell'emergenza in Medio Oriente, fornendo viveri, cibo, vestiti, medicine, supporto dei traumi, aiuto concreto alle nostre sorelle e ai nostri fratelli perseguitati a causa di Cristo Gesù. Senza esitazioni sono qui con il cuore gonfio di gratitudine a dirvi grazie. Grazie per quanto avete fatto e per quanto continuate a fare per questa missione. Credetemi, il vostro coraggio e il vostro dono cambia il mondo, salva vite, investe in un regno che non avrà mai fine. Dio possa ricompensarvi per tutto questo. Ciao. Amen, bellissimo, vero? È fantastico un Christian, ma ancora di più è un servo di Dio meraviglioso ed è troppo bello poter appoggiare quest'opera insieme. L'hai fatto tu, l'ho fatto io, l'abbiamo fatto insieme e anche quest'anno faremo miracoli anche attraverso i nostri averi. Amen? Ci siete? Siamo insieme in questo? Amen. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo ringraziare il Signore per l'anno che c'è stato e anche per l'opportunità nuova che ci dà quest'anno di poter andare avanti insieme. Padre, noi insieme come Chiesa Tua vogliamo ringraziarti di cuore per ogni conquista e vittoria avuta nel 2015. Grazie Padre per ogni investimento di generosità che come Chiesa abbiamo potuto offrire a Te e all'avanzamento del Tuo regno. Grazie Padre per ogni conquista che abbiamo visto in questa casa e grazie per ogni conquista che abbiamo visto individualmente nelle nostre vite. Padre, noi riconosciamo che senza di Te, come è scritto nella Tua parola, noi non possiamo fare nulla e quindi Padre noi riconosciamo che tutto quello che abbiamo potuto fare, che ha di miracoloso, che ha di divino, che ha di amore, di grazia, di santità, proviene da Te. Ti siamo grati perché sei la fonte di tutto questo nelle nostre vite e Ti ringraziamo Padre per ogni sfida anche e per ogni caduta, per ogni cosa che non è andata bene, perché anche nella tempesta, anche nelle difficoltà, anche nelle situazioni più tragiche Tu hai dimostrato di essere vicino a noi, ci hai rialzato, ci hai consolato e eccoci qua stamattina Padre a dirti abbiamo ancora bisogno di Te. Abbiamo bisogno di Te per questo nuovo anno, per le nuove sfide che ci stanno davanti, abbiamo bisogno di Te per le nostre famiglie, per il nostro cuore, abbiamo bisogno di Te, abbiamo bisogno del Tuo intervento e Ti ringraziamo perché insieme possiamo farcela, non nelle nostre forze, ma nella forza e nella potenza dello Spirito Santo che Tu ci hai fatto, di cui Tu ci hai fatto dono. Grazie Gesù, a Te la gloria e l'onore. Amen. Amen. Possiamo accomodarci. Questa mattina non voglio tanto predicare un messaggio, ma ho introdotto il tutto parlandovi di questa occasione dove la Chiesa ha pregato insieme, perché io credo e tutti noi crediamo nella potenza che c'è nella preghiera, una potenza che particolarmente diventa ancora più efficace quando è la Chiesa che si unisce e prega. Ed è quello che vogliamo fare in questo giorno, vogliamo prendere autorità nel nome di Gesù e vogliamo spendere un tempo di preghiera. Quindi tutto quello che io andrò a dire adesso non è tanto per prendere solo degli appunti o ascoltare un buon messaggio, avere nuove informazioni, ma spero che quello che vado a dire oggi, questa mattina, adesso, possa essere qualcosa che motiva te a chiedere preghiera, a prendere delle decisioni affinché insieme, uniti, possiamo chiedere l'intervento di Dio, perché Lui che può cambiare le circostanze e le situazioni e darci un nuovo anno di vittoria. Amen. Quindi ci sono un paio di versi che voglio leggere, sicuramente non posso mancare di leggere un verso che ci ha accompagnato per l'anno 2015, mi dispiace per chi si stanca di leggere questo verso, però se lo leggiamo ancora è perché io non l'ho imparato ancora a memoria e credo neanche tu, però se l'hai imparato a memoria, dopo questo messaggio puoi venire a me e dire: Mirko, non predicare più su questo messaggio perché lo conosco a memoria, ok? Quindi leggiamolo insieme ancora, ed è Filippesi 3, versetto 12, che dice: non che io abbia già ottenuto tutto questo, sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino. Fratelli e sorelle, seguire Cristo è un cammino, ed è un cammino dove noi procediamo in avanti. Noi siamo chiamati a camminare. Tu sei chiamato a camminare, e il nostro cammino non è quel cammino religioso fatto di atti esteriori, no? Perché la religiosità ci presenta il cammino del credente, il cammino del cristiano, come atti religiosi esteriori attraverso i quali noi possiamo catturare l'attenzione di Dio, possiamo avere il diritto di essere da Lui amati ed essere agli occhi Suoi speciali. Perché? Perché abbiamo fatto quei passi che la religione ci impone. No, il cammino che la Bibbia presenta, il cammino che Dio chiama ciascuno di noi a vivere, è un cammino dove noi conquistiamo territori che hanno a che fare molto più di più con ciò che noi abbiamo dentro di noi che in ciò che accade esteriormente a noi. Non è tanto il battezzarti in acqua che sarà una conquista nel tuo cammino, quanto il realizzare il valore interiore della nuova nascita in Cristo, di arrendere completamente la tua vecchia vita e prendere la nuova vita in Cristo Gesù attraverso i simboli dell'acqua, dell'immersione, dell'uscita dall'acqua, per fare solo un esempio. E anche questa mattina non è il tuo atto di celebrare la cena del Signore esteriormente che ti rende più gradito a Dio, ma è quello che accade nel tuo cuore. Quali passi di conquista fai nell'approcciarti al pane e al vino, che sono simboli di quello che Cristo ha fatto per te? Quanto questo, partecipare a questa cena, ti avvicina ancora di più in santità alla sua vita, alla sua presenza. Questo è il cammino che Dio ci chiede di fare, un cammino che ha molto a che fare con ciò che avviene dentro di te. E l'Apostolo Paolo dice: io proseguo il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono stato afferrato. Vedete, il cammino del credente funziona così, che è Gesù che ci afferra. È Lui che ci prende, è Lui che per grazia ci salva. Non è tu con i tuoi passi del tuo cammino che conquisti la salvezza eterna, ma è Cristo che ha già conquistato ogni cosa. Lui ti afferra, e dopo che ti ha afferrato, questo tuo vincolo, questa tua relazione con Lui diventa una relazione che ti trasforma divinamente, miracolosamente, passo dopo passo. E questo diventa il cammino, e tu ti protendi verso l'afferrare per la ragione per la quale tu sei stato già afferrato da Lui. E va avanti dicendo: fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato. Che bello! Apostolo Paolo, nella sua statura spirituale, nell'uomo che è, dice: io ancora non sono arrivato. Io spero che ci possa essere una sana fame nel cuore di ciascuno di noi, non un accontentarsi di quello che hai raggiunto, non un accontentarti di quello che hai potuto vincere nell'anno passato, ma dire: io ho altro da conquistare davanti a me. Questo 2016 sarà un anno dove io conquisterò nuovi territori. Io non sarò la stessa persona che era l'anno scorso, io non sarò oggi quello che ero ieri, e domani non sarò quello che sono oggi, e fra 5 anni voglio essere qualcosa che non sono stato ancora, perché Dio ci chiama a nuovi territori, a nuove conquiste. Questo è quello che Lui vuole per te e per me. Io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio: dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti, corro verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. È come se l'Apostolo Paolo a un certo punto si corregge, dice: io proseguo il cammino. Anzi no, non è un cammino, è una corsa. Io voglio correre, corro, corro per conquistare quelle cose. Voglio leggervi un altro verso che parla di corsa. La Bibbia, il Nuovo Testamento è pieno di questa analogia per il credente. Tu non sei chiamato a camminare, tu non sei chiamato a passeggiare, a fare dei passi piccolini, cauti, no? Leggeri, no? Da vecchietto, no? Con la cosa che treme. Dio ti chiama a correre. Non è bellissimo? Dio ti chiama a conquistare, Dio ti chiama a sentire il vento sul volto, Dio ti chiama a sudare, il tuo cuore deve battere, tu devi conquistare con forza, con vigore, con zelo. Questa è la vita del credente. L'apostolo Paolo dice: io corro, in Ebrei, al capitolo 12, versetto 1, noi leggiamo di questa metafora bellissima, che è una gara. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Noi siamo chiamati a correre. Dì alla persona che ti sta a fianco: corri, corri, quest'anno corri, non camminare, non passeggiare, non essere insicuro nel tuo cammino, corri, sei chiamato a correre. Dio vuole che noi ci protendiamo in avanti, e io voglio semplicemente farti comprendere che il progresso al quale Dio ti sta chiamando è qualcosa di meraviglioso. Dio vuole darti territori di conquista, perché Lui non vuole che tu rimani nel punto in cui Lui ti ha incontrato. Lui non vuole che tu rimani nel punto in cui ti ha incontrato. Lui non vuole che il tuo carattere rimanga invariato, perché Lui è più potente di ogni carattere, di ogni aspetto del tuo cuore. Dio non vuole che tu rimanga dove ti ha incontrato, perché Lui ha di meglio per te. Lui ti vuole far vivere un passaggio dal bene al meglio che ha per te. Lui quest'anno vuole farti passare da quello che hai già conquistato ad altre ulteriori conquiste. Tu puoi dire: Mirko, non c'è conquista più grande della salvezza eterna che io abbia potuto ottenere. Invece sì! Oltre la conquista della salvezza eterna, Cristo non è morto solo per darti salvezza eterna e per perdonarti dei tuoi peccati. Dio è morto anche per darti una vita trasformata, affinché tu possa assomigliargli, affinché tu su questa terra possa camminare come Lui ha camminato. È glorioso, è incredibile, è meraviglioso, è il suo miracolo. E quando noi ci accontentiamo, vanifichiamo per certi versi la sua morte, il suo sacrificio per noi. Quando noi ci accontentiamo di essere quello che siamo, i credenti che siamo sempre stati, i religiosi che si portano avanti in questo cammino sofferente, la via crucis del credente, questo non è quello che Dio ha per noi. Dio vuole farti un conquistatore. Dio vuole fare la storia con te, attraverso di te. Dio vuole fare miracoli nella tua vita e attraverso la tua vita, nella vita di molti altri. Dio ti chiama ad essere luce e sale in questa terra. Lui ti chiama ad essere un suo erede, ad essere un principe, ad essere un re, un sacerdote, ad essere il suo popolo che lo rappresenta, a vivere nella luce, nella santità e a mostrare questa raggiante gloria attraverso il tuo volto, attraverso le tue azioni, affinché le persone guardandoti non possono far altro che glorificare Dio e dire: c'è un Dio e vive nella vita di questa persona, e lo vedo e lo voglio. Questo è quello che Dio vuole fare attraverso di me e attraverso di te. Tu per correre devi dimenticare. Abbiamo letto in Filippesi 3, dimenticando le cose che stanno indietro. Dimenticare. Tu devi dimenticare. Tu devi dimenticare quello che c'è stato nel 2015. Tu devi dimenticare quelle cose che segnano il tuo percorso negativamente oggi e che hanno a che fare con i fallimenti passati. Tu devi dimenticare. Ora dobbiamo comprendere questo termine, però, perché quando noi Parliamo di dimenticare qualcosa, no? Ci viene in mente, no? Quelle persone nella nostra vita che dimenticano le chiavi, dove stanno, no? C'è Elijah che ricordava a suo padre qualche giorno fa, che tu dimentichi tutto, no? E siamo così, no? Specie noi uomini conosciamo molto bene quella parola, no? Ricordate quando abbiamo parlato dei pensieri, che noi abbiamo un elettroencefalogramma piatto, ecco, quando c'è quella fase, no, REM, che solo noi sappiamo vivere, dimentichiamo le cose, no? Dov'è quell'oggetto, dov'è quella cosa, che cosa devo fare, no? Però la Bibbia non sta parlando qui in questi termini. Dimenticare non significa rimuovere un ricordo, perché tu non puoi rimuovere i ricordi. Quello che Dio sta dicendo qui è, in realtà andando a studiare anche questo verso, lo scoprireste anche voi dal greco, che questa parola dimenticare verrebbe tradotta molto meglio con il non ricordare. E non ricordare ci pone davanti a quella scelta di non ravvivare determinati ricordi nella nostra vita. Non permettere che determinate situazioni, circostanze, fallimenti hanno ancora oggi il potere di trasformare e determinare il nostro cammino in Cristo e con la Chiesa. Questo significa dimenticare. Tu non puoi rimuovere determinati pensieri, tu non puoi rimuovere determinati traumi, tu non puoi rimuovere determinate cose che ti hanno ferito, non puoi rimuovere determinati torti che hai subito, ma quello che tu puoi fare è scegliere di non rinnovare, ravvivare quel ricordo e vivere in condizione cambiata, trasformata per il rinnovo del ricordo che tu hai. Quando noi rinnoviamo il nostro ricordo, allora noi rinnoviamo anche il nostro fallimento nelle relazioni. Noi falliamo nelle relazioni perché incrociamo quella persona e quella persona non la riusciamo più a vedere in faccia, non la riusciamo più a trattare, perché si rinnova in noi il ricordo di qualche torto che abbiamo subito da quella persona. Diventa talmente grave questo processo, è diabolico, che crea in noi a tal punto un carattere trasformato, una personalità trasformata. Diventiamo più freddi, più insensibili. Ci sentiamo che dobbiamo proteggerci da tutto e da tutti. Io conosco fratelli e sorelle in mezzo a noi che non servono più in chiesa perché sono stati feriti a un certo punto del loro percorso, del servire in chiesa. E perché sono stati feriti in quella cosa, al posto di dimenticare, come dice l'Apostolo Paolo, rinnovano il ricordo di quel trauma e di quella situazione vissuta male. Dicono: no, io non servo più in chiesa, mi tutelo in questa maniera. Mai più leader, mai più servo, mai più nessuna cosa. Io vengo la domenica in chiesa, vengo alle 10:30, anzi alle 40, così non devo salutare troppa gente. Me ne vado prima, no? Quando c'è la cena del Signore, prendo il mio pane, il mio vino, via, scappo. Perché? Perché sono traumatizzato. In me si rinnova sempre il ricordo di determinati torti, di determinate cose. Gesù cosa ci insegna di fare? Perdonare. E Pietro ci ha messo proprio nei guai perché ha domandato quella domanda, ha detto: Gesù, ma quante volte dobbiamo perdonare? 7 volte. Ma se si fosse stato zitto, forse noi oggi potevamo ancora sperare nella possibilità di perdonare solo 7 volte. Invece ha fatto quella domanda e Gesù gli ha risposto e gli ha raccontato pure una storia e gli ha detto: devi perdonare 70 volte 7, addirittura ha aggravato il tutto dicendo: se voi non perdonate agli altri, neanche Dio perdona a voi. E ora siamo nei guai seri, nei guai più totali per colpa di Pietro. Quando andremo in cielo glielo diremo. Gesù ci insegna a perdonare sempre, ognuno, per qualsiasi cosa. Dio ci chiama a perdonare sempre, ognuno, per qualsiasi cosa. Dio ci chiama sempre a perdonare ognuno, per qualsiasi cosa. Non hai scuse, non hai una motivazione giusta che ti può portare a dire: io vengo in chiesa ma scanso quello, no, io quello non lo posso più vedere. Perché non lo puoi più vedere? Sai che non me lo ricordo. Perché questo è il fatto. Capite che non è tanto il ricordo quello a cui Dio ci sta chiamando a non rinnovare, ma a quel percorso diabolico che si è innestato nella nostra vita, si è innescato nella nostra vita e ci porta a non trattare le persone, a vivere determinate cose. Dimentica per il bene delle tue relazioni, dimentica per il bene delle tue scelte. Non fare in modo che la tua vita sia determinata da quello che è stato nel tuo passato, tanto da essere così cauto e così premuroso e così pauroso nel fare scelte coraggiose. Perché? Perché in passato, quando le hai fatte, sei rimasto male. Osa, abbi coraggio, dimentica. Se dimentichi, sei una persona libera. E quando tu dimentichi realmente, voli. Non ti interessa più. Sì, ho fallito, sono caduto quella volta, ma questa non è quella volta. Sì, è vero, mi ha fatto male quel fratello, quella sorella, ma questa non è quella volta. Oggi mi posso dare una nuova occasione, questo è un nuovo anno, questa è una nuova strada, questa è una nuova stagione, Dio vuole fare nuove cose e io voglio seguire quello che la sua parola dice. Perdonerò, amerò, farò passi di fede, sarò coraggioso e andrò avanti in quello che è il cammino che lui ha per me, anzi correrò. Dimentica per il bene di tutte queste cose, per il bene del tuo carattere, che non sia distorto. Io trovo parti del mio carattere che sono distorte per cose che sono avvenute nel passato. E io ho la necessità di tornare indietro, fare un percorso a ritroso, ritornare a quel trauma e dire: tu non hai il potere di modificare il mio carattere. Tu non hai il diritto di cambiare la mia personalità. Io sarò una persona che avrà fiducia delle persone. Questa è una cosa che è forse uno dei più grandi insegnamenti che io ho da parte di mio padre. Per quanti torti che ha subito, per quante situazioni lui ha dovuto affrontare, per quanti tradimenti, lui ha dimostrato sempre nella mia vita: Mirko, io mi fido della gente. E io sono sempre stato lì addirittura a volerlo proteggere, di papà no, non lo fare, perché non c'è da fidarsi della gente, la gente è malata, è sbagliata. E lui dice: no, io scelgo di fidarmi, perché scelgo di essere libero. Scegli di essere libero, forse ti farai male, e che fa? Dio ti darà la forza di rialzarti, ma meglio che ti fai male da libero, che non che rimani senza ferite da schiavo. Il Signore ci chiama a correre, e un altro modo per correre è lasciare. Tu puoi solo afferrare, protenderti in avanti, correre nel momento in cui dimentichi. Questo è l'insegnamento che abbiamo in Filippesi. E in Ebrei, capitolo 12, abbiamo l'insegnamento che tu puoi correre, puoi conquistare, puoi avanzare, puoi progredire, se lasci. Lasci cosa? Lasci i peccati e i pesi. A volte nella nostra corsa siamo affannati, siamo appesantiti, addirittura ci fermiamo e diciamo: Signore, dammi nuove forze, non ce la faccio più. E non ci rendiamo conto che la nostra stanchezza, la nostra pesantezza non dipende dalle forze che ci mancano, dipende dai pesi che portiamo. I pesi che ci stanno sulle spalle, il peccato della nostra vita che noi continuiamo a portare avanti, è quello che ci appesantisce. Io avrei voluto fare un'illustrazione stamattina, avrei sicuramente utilizzato Elijah, però non c'è stato modo di prepararmi. E avrei voluto far correre Elijah da quel punto a quel punto, ve lo immaginate già, lui sarebbe una freccia. Andrebbe a sbattere contro il muro, talmente con vigore correrebbe. E poi avrei voluto riempirlo di pesi. Pesi sulle spalle, pesi alle gambe, e chiedere a lui di correre. E provate a immaginare, no, con dei sacchi, dei pesi, non abbiamo l'illustrazione pratica, ma vi invito a immaginarlo, no? Con quanta fatica avrebbe dovuto spingere quei pesi per arrivare allo stesso punto. Non che la forza è di meno, anzi la forza è pure maggiore, è il peso che lo schiaccia e lo frena. E la Bibbia ci insegna, in questo caso, dandoci una metafora bellissima, e dicendo, avendo una schiera di testimoni, che sono tutti questi uomini che vengono elencati nel capitolo 11, uomini di fede, Abele, Enoch, Abramo, Sara, Isacco e Giacobbe, Giuseppe, Mosè, Barak, Sansone, facendo tutta questa lista, io invito ciascuno di voi nell'anno nuovo, andatevi a studiare questi uomini di fede, perché la Bibbia dice, avendo questa schiera di testimoni, non come a dire che loro stanno a guardare noi, ma noi dobbiamo guardare loro, perché loro non è che stanno a guardare noi, hanno ben altro da fare, non c'è questo tipo di connessione fra i vivi e i morti, ma noi possiamo guardare a loro, alla loro testimonianza di fede, e motivati dalla loro condotta, dalla loro vita, noi possiamo essere motivati a correre, e a correre come? Liberandoci dei pesi e liberandoci del peccato, che dice la Bibbia in questo verso, così facilmente ci avvolge. Qual è il peccato non confessato nella tua vita? Qual è il peccato che stai ancora nascondendo a te e agli altri? Vuoi correre? Devi liberarti del peccato. Gesù è venuto non solo per perdonare i nostri peccati, ma gloria a Lui, è venuto anche per liberarci da una vita abbandonata al peccato. Ti sei arreso al peccato della tua vita? Ti sei arreso a quel modo sbagliato di vivere la vita non in accordo con la parola di Dio? Stai sbagliando. E non puoi correre così. E avrai un percorso rallentato, e se il tuo peso è troppo schiacciante, addirittura rimarrai schiacciato e fermo dal peccato della tua vita. Gesù è morto per darti libertà su quel modo di vivere fatto di bugie. Dove tu dici bugie agli altri, dici bugie a te stesso. È più facile, lo giustifico con una bugia, che vuoi che sia. Noi dobbiamo tornare alla parola di Dio e renderci conto di quanto negativo è il peccato, perché ci schiaccia e ci impedisce di correre e conquistare quello che Dio ha per noi. Dobbiamo renderci conto che non si gioca con il peccato, che il peccato non è qualcosa sulla quale noi possiamo essere superficiali. Lo faccio, tanto poi Dio mi perdona, faccio una preghiera e poi ci riprovo. No! Non puoi giocare con ciò che è morte. Farà morire te, ti fermerà e ti costringerà a una vita alla quale Dio non ti ha destinato, perché Dio vuole farti volare, Dio vuole farti correre, Dio vuole farti conquistare, e l'unico modo per farlo è che tu abbandoni quel peccato. Come? Con ogni forza possibile, con ogni determinazione, con ogni radicalità. Non ce la fai da solo? Fatti aiutare. Non ce la fai con l'aiuto col quale ti fai aiutare? Cercane altro. Chiedi aiuto, chiedi consulenza, ma non rimanere in una vita che è arresa a quel vizio, a quel peccato, a quella mancanza, a quella carnalità che domina su di te. Liberati del peccato. Liberati dei pesi. È bello questo doppio... Queste due parole, non solo abbiamo dei peccati, abbiamo dei pesi nella nostra vita. I pesi non sono peccati, però comunque hanno quella caratteristica che riescono a fermare, a impedire la tua corsa piena. E tu solo, con lo Spirito Santo, puoi capire quali sono quei pesi. La parola originale nel greco ci parla di ingombri, degli ingombri. Sono delle cose che, se ti poni la domanda, ma questo è un peccato? No, la risposta sarà no. Nessuna parte della Bibbia ti dirà che quello è un peccato nella tua vita e che tu stai peccando contro Dio, ma molto probabilmente... Si tratta di un peso, e quel peso intralcia la tua corsa. Un peso può essere la distrazione, l'intrattenimento. Noi viviamo in una società di intrattenimento. Siamo intrattenuti da tutto, no? Film, giochi, Facebook, internet, messaggi, WhatsApp. Sono peccati? Assolutamente no. Puoi vedere film? Assolutamente sì. Puoi andare al cinema ogni giorno? Assolutamente sì. Puoi chattare continuamente con i tuoi amici e creare nuovi gruppi Dio ti benedica per i gruppi che stai creando. Mamma mia, non mi aggiungere per piacere. Te lo chiedo con tutto il cuore, non mi aggiungere nel gruppo di WhatsApp. Perché rimarrò lì dentro solo per non dimostrarti che sto uscendo. Ma non possiamo passare ore preziose della nostra giornata davanti a un cellulare e perdere l'occasione di leggere, studiare, meditare la parola di Dio e stare in intimità con Lui. Vi rendete conto che questo diventa un peso, diventa un ingombro e diventa un intralcio per la corsa? Sei tu che lo puoi analizzare per te stesso. E da questo palco noi non diremo mai: Facebook è un peccato, i film sono un peccato. Perché di fatto non lo sono. Però da questo palco noi vogliamo incoraggiarti a correre, a investire i tuoi soldi, il tuo tempo, i tuoi talenti per cose migliori, per cose gloriose. Ci sono persone che in questo momento sentono la necessità di accendere quel cellulare e consultare Facebook. Ci sono persone che in questo momento, nel momento in cui finiremo questo culto, la prima cosa che faranno e andare su Facebook, andare ad aggiornarsi con i vari amici, su WhatsApp, a parlare, quant'altro. E noi abbiamo sostituito la connessione più importante con delle connessioni secondarie e molto superficiali. È un ingombro, è un peso. E un peso può essere tante scelte che hanno a che fare con la nostra routine quotidiana. Qualsiasi cosa che tu riconosci che non ti sta permettendo di correre quella gara che hanno corso queste persone di fede che ho citato e che trovi nel capitolo 11, sono dei pesi che devi rimuovere. La parola di Dio te lo dice con molta chiarezza, in maniera molto esplicita. Ebrei 12, lo vorrei rileggere con voi e concludere in questa maniera, portando ciascuno di noi a una scelta questa mattina. Anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo, abbandoniamo, lasciamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Come puoi correre? Guardando i testimoni, guardando quegli uomini e volgendo il tuo sguardo fisso su Gesù, sulla vita che Lui ha avuto, sulle cose che Lui ha detto, sulle cose che Lui ha comandato, sulla preghiera che Lui ha insegnato a noi di fare, sul digiuno che ci chiede e ci chiama a fare, a vivere nella nostra vita, fissando lo sguardo su quel Gesù che è morto ed è risorto per te, ed è quello che vogliamo fare adesso. Voglio portare ciascuno di noi a fissare lo sguardo su Gesù e a confessare davanti a Lui qual è il peso, qual è il peccato di cui ti devi liberare per correre ancora di più nella tua vita. Vogliamo alzarci in piedi? Io vorrei fare un appello e io credo, come ho detto all'inizio, nella potenza della preghiera. E quello che faremo stamattina è prendere autorità nel nome di Cristo Gesù su ogni catena che ti sta ancora tenendo legato. Prenderemo autorità nel nome di Cristo Gesù su ogni peso del quale non riesci ancora a liberarti, ma del quale Gesù ti vuole liberare questa mattina. Prenderemo autorità nel nome di Cristo Gesù affinché ogni ricordo che si ravviva in te e modifica il tuo carattere, le tue scelte, le tue relazioni, tu lo possa lasciare dietro di te, alle tue spalle, tu lo possa letteralmente dimenticare, nel senso che non rinnovi più il ricordo di quelle cose. Io credo nella potenza che c'è nel nome di Cristo Gesù e credo nella potenza della preghiera. Quindi se tu sai che sei una di queste persone che ha bisogno di questa preghiera, anche se dovessimo essere tutti a venire avanti, io voglio invitarti a venire qui avanti. Io sono il primo qui avanti che dico: io quest'anno voglio correre. Non voglio camminare, voglio correre, voglio conquistare, voglio vedere il regno di Dio avanzare nel mio cuore, nella mia vita, nelle mie scelte, nelle mie relazioni, nel mio ministero, nelle cose che Dio ha per me. Sono convinto che siamo in molti a voler questo. Quindi voglio invitarti subito, anche mentre il gruppo Lode viene, ci guida in un tempo di adorazione, io voglio che ognuna delle persone che sceglie di fare questo e chiede preghiera, che venga in questo momento avanti. E vogliamo pregare insieme.